Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questa lezione di jazz. Come sapete, nel nostro ciclo alterniamo argomenti differenti e in alcuni casi ci inoltriamo viaggio nel capolavoro, come abbiamo chiamato, di un brano. E partendo da quel brano proviamo a scendere nel dettaglio di quel brano, ma anche a scoprire tutto quello che c'è intorno. Oggi abbiamo scelto un brano molto noto di Bud Powell, Un poco loco, che come sapete in spagnolo vuol dire un po' pazzo, che è un brano registrato il 1º maggio del 1951 e in trio. È un disco, come vedremo, che ha una storia molto affascinante, che tra l'altro coinvolge alcuni dei più grandi musicisti della storia del jazz, un disco di culto che addirittura, come vedremo, ha influenzato persone anche lontane dal jazz. Allora, facciamo una breve storia del disco. Prima partiamo dai musicisti. In basso a sinistra l'eroe della nostra storia, Earl Powell, detto Bud. Nato nel 1924, scomparso molto prematuramente nel 1966, pianista di Harlem, nato a New York, dotatissimo fin da ragazzino, lezioni di pianoforte private, classico, a 15 anni lascia la scuola ed è già un professionista del jazz. Gli si interessa anche la musica classica, ma è il jazz che lo interessa ancora di più. A 16-17 anni già frequenta le jam session di Harlem e già si fa un certo nome. Addirittura va a suonare professionalmente con Cootie Williams, l'ex trombettista di Duke Ellington, un nome molto grosso, quindi con come dire, un impegno professionale di spessore. E subito alla fine della guerra, però, il nostro Bud Powell comincia a manifestare alcuni problemi che sono di natura principalmente psichica. Sull'origine di questi problemi psichici sono stati versati fiumi d'inchiostro. Sicuramente c'è un episodio traumatico quando Powell sulla 52esima strada, era la strada dei locali di Manhattan, dei locali di jazz, viene preso da un poliziotto bianco, probabilmente era alterato, aveva bevuto troppo, e viene violentemente picchiato sulla testa. Non è un caso che, tra l'altro, questi erano episodi che accadevano regolarmente, musicisti o persone di pelle scura viste in quartieri a prevalenza bianca erano visti così con molto sospetto e spesso la polizia picchiava anche i musicisti. C'è una famosa foto di Miles Davis grondante di sangue, picchiato da un poliziotto perché l'aveva visto parlare con una donna bianca, cosa che non si poteva, diciamo, è una legge non scritta del razzismo americano, non si poteva fare. La cosa drammatica è che dopo questo episodio Powell ha cominciato a manifestare segni, non sappiamo se scatenati da questo incidente o, come dire, dormienti nella psiche di Powell, ha cominciato a manifestare segni sostanzialmente di schizofrenia e all'epoca, soprattutto con i neri, non ci andavano tanto per il sottile. Powell è entrato e uscito dagli ospedali psichiatrici per tutta la sua vita. E ha subito, nelle forme più devastanti e violente, anche diversi elettroshock. Anche perché, come ha dimostrato un libro di uno studioso statunitense, Peter Pullman, tra l'altro un caro amico, guardando i referti medici diciamo, dell'accoglienza di Powell negli ospedali psichiatrici, il fatto che fosse nero autorizzava i dottori a utilizzare un linguaggio vagamente razzista e a trattare in modo piuttosto sommario queste persone. Tuttavia, fino ai primi anni 50, da un punto di vista musicale, la precarietà fisica e psichica di Powell non si fa sentire più di troppo. Va detto anche che Powell comincia a bere, diventa dipendente dall'eroina, quindi tutta una serie di problemi e non a caso contrarrà più tardi la tubercolosi che lo porterà prematuramente alla morte. La storia di Powell, tra l'altro, è molto nota perché ha ispirato un film molto famoso che è Round Midnight di Bertrand Tavernier, il cui protagonista è un sassofonista ma la cui vicenda, in particolare tutta la vicenda del fatto che viene in Europa, incontra un musicista, un appassionato che lo ospita e poi tornerà negli Stati Uniti dove morirà, è nient'altro che l'ultima parte della vita di Bud Powell. Per questo disco lo accompagnano invece un musicista che di solito di cui non si parla mai perché era perfettamente pulito, non era un maledetto, non si drogava, era uno molto tranquillo, Dillon Carly Russell, Carly cioè Riccioluto, bassista che non a caso, vedete, è vissuto, ahimè, molto più, cioè ahimè per Powell, molto più a lungo, e poi uno dei più grandi maestri della batteria di tutti i tempi, forse il più grande batterista di tutti i tempi, Max Roach, che era coetaneo di Powell. Diremo qualcosa su questi musicisti e sulla loro interazione poco più avanti. L'idea di fare un disco a Powell venne a due produttori che vedete lì sopra, Alfred Lion e Francis Wolff, erano due immigrati ebrei dalla Germania, scapparono negli anni 30 dalla Germania nazista, e siccome erano già nel business della distribuzione e della registrazione, fondarono una piccola casa discografica che si chiamava Blue Note alla fine degli anni 30. Wolf, tra l'altro, era anche un formidabile fotografo, le cui fotografie oggi sono molto molto quotate nel giro del jazz, se uno vuole, diciamo, le stampe degli originali. Lion è poi diventato un produttore leggendario perché, come sapete, la Blue Note, che esiste ancora, è diventata una delle case discografiche di riferimento. Decisero di dare a Powell l'opportunità di fare un disco, un altro. Avevano già lavorato in passato, era un po' che non lavoravano insieme. Lion dice: facciamo un disco. Siccome Lion conosceva i suoi polli e sapeva che Powell spesso non si presentava alle sedute di registrazione, gli dice la sera prima: senti, vieni a casa mia, dormi da me e il giorno dopo andiamo a fare il disco, così sei sicuro che te lo porti allo studio e lui ci sarà. E in effetti le cose vanno così. Powell la sera prima dorme a casa di Alfred Lion, la mattina dopo tutti quanti vanno in centro, downtown, dove c'è uno studio di registrazione affittato da Lion, ci sono Russell e Roach pronti per registrare, quando a un certo punto Powell fa: scusate, arrivo subito, ed esce. Passano 10 minuti, non torna, passa mezz'ora, non torna, passano 3/4 d'ora, non torna, passa 1 ora, non torna. Dopo 90 minuti, che sono soldi perché lo studio è stato affittato per 3 ore, dopo 90 minuti decidono di andare via. Decidono che è il caso di... Non era la prima volta. Lion aveva preso la precauzione di farlo dormire a casa sua, ma non era riuscito a trattenerlo. A un certo punto, mentre cominciano a smontare, entra, si fionda Powell in studio, questa storia ce la raccontano sia Carly Russell sia Max Roach, si fionda in studio, va al pianoforte e fa: tutti pronti? Avanti, via! E comincia a suonare. Evidentemente si era andato a cercare una dose e finalmente registrano il pezzo. In realtà non lo registrano una volta sola, lo registrano più volte, perché è come se facessero delle prove. E noi, per fortuna, abbiamo tutte e tre le registrazioni. Com'è questo pezzo? Cominciamo a sentire la prima volta che loro si mettono lì e lo suonano. Una premessa. Quando l'hanno provato? L'hanno provato? Sì, l'hanno provato, perché il pezzo è complicato. E in particolare il contrabbasso è una parte complessa. Però non sappiamo se l'hanno provato quando arrivarono in studio oppure se l'hanno provato qualche giorno prima. Probabilmente nell'aneddoto che ci è stato raccontato manca sempre quella cosa importante che i musicisti di jazz molto tendenziosamente tendono a non raccontare, cioè il fatto che si sono preparati, in modo da veicolare un'immagine istintiva, spontanea del jazz, perché uno dice: guarda che geni, suonano insieme senza neanche essersi guardati in faccia. In genere i musicisti di jazz non raccontano mai che si sono seduti, hanno scritto la parte, hanno fatto le prove, eccetera. Fateci caso nelle interviste. Poi se c'è qualche critico che prova a chiedergli: ma avete provato gli accordi? No, tutto feeling, man, tutto feeling. Si toccano il piano, tutto feeling, tutto feeling. Entrano in studio e attaccano a suonare. Attenzione, in realtà hanno provato, ma forse non hanno provato tutto, devono aver provato solo il tema. Perché, come sentirete, a un certo punto si fermano a metà del pezzo. Questa è la prima take. finiscono così, un po' in maniera improvvisa. Avete sentito che Bud Powell esplora delle idee, fa un sacco di errori, in certi punti si capisce che non sa bene che cosa deve fare, ma intanto noi cosa abbiamo sentito? Un pezzo dal forte carattere latinoamericano, con questo campanaccio molto invasivo di Max Roach che porta questo ritmo. C'è un tema all'inizio, poi avete sentito che c'è una parte invece più statica, fatta dalla mano sinistra del piano dal contrabbasso, su cui Powell improvvisa a lungo e in maniera anche molto ondivaga. In alcuni punti si sente che smozzica delle frasi, si ferma, riparte, si sente la sua voce a un certo punto dopo una frase particolarmente elaborata che quasi si compiace. E poi il pezzo, vedete, sembra dover accennare un assolo di batteria e invece si ferma. Evidentemente, fra questo e quella, la seconda take, devono aver parlato. Tra l'altro, sì, avranno provato, ma anche adesso riascoltandolo, per esempio nella parte iniziale si sente che il contrabbassista fa delle note sbagliate. È anche possibile che Powell abbia dato delle indicazioni puramente verbali, come spesso accadeva, o abbia buttato giù due note su un pezzo di carta, ma è più probabile che, sentendo gli errori che fanno, abbia dato delle indicazioni verbali sugli accordi, le note da suonare. Fatto sta che immaginiamo, dopo un po' di discussione e qualche minuto dopo, ricordatevi che un'ora e mezza se n'era già andata e non dovevano fare solo questo pezzo, ne dovevano fare almeno 3-4, decidono di fare una seconda take, una seconda versione, perché questa non è pubblicabile obiettivamente. E quindi registrano di nuovo il pezzo in maniera sensibilmente diversa. Questa è la seconda take. Thank you. Ora c'è un assolo di batteria. Rifanno il tema, che prima non c'era. Ancora mille incertezze nel pianismo, nella batteria, però evidentemente hanno deciso comunque dopo l'assolo, diciamo, fermandosi, c'è un assolo di batteria e rifanno il tema. Questa idea di rifare il tema alla fine l'hanno elaborata fra la prima e la seconda take? Secondo me no, era già prevista nella prima take, solo che siccome stavano esplorando, a un certo punto si sono fermati e non sapevano come riprendere. Quindi nella seconda take finalmente abbiamo la versione completa del pezzo, il tema all'inizio. Una lunga improvvisazione su questo basso ostinato, che si chiama Montugno nella musica cubana, breve assolo di batteria, ripresa abbreviata del tema. Però, avete sentito, c'erano delle pause, dei silenzi, delle esitazioni. Evidentemente Alfred Lion, d'accordo con Bud Powell, avrà detto no, questa non la posso pubblicare, facciamone un'altra, una terza per sicurezza. Questa terza sarà poi quella che verrà pubblicata. Ed è quella che andiamo ad ascoltare. Mentre l'ascoltiamo, vi faccio vedere in dettaglio la struttura, così poi cercheremo di capire meglio che cosa succede dentro ogni episodio del brano. Sostanzialmente, come vi ho detto, ci sono tre grandi aree. Il tema iniziale, che è tutto scritto, non c'è una sola nota di improvvisazione. La lunga improvvisazione sul Montugno centrale, che invece è tutta improvvisata, salvo quel tema secondario che Powell fa sia nella prima sia nella seconda take. E poi la ripresa del tema finale. Questa struttura che ho evidenziato, A, B, A, si chiama forma ternaria ed è molto, molto comune nella musica classica europea, molto meno nel jazz. E quando i musicisti di jazz la adottano, la fanno con una specie di consapevole riferimento alla musica colta europea. Stamattina avete scelto di venire alla lezione di jazz e avete fatto benissimo ovviamente, ma di là c'è un concerto su Robert Schumann e la musica di Schumann è stracolma di strutture ABA come quella che vedete, quindi non vi siete persi niente, tanto meglio che siete venuti qui, i concetti sono gli stessi. Bene, adesso noi ascoltiamo la terza take, quella definitiva, senza esitazioni, senza errori, quella leggendaria, diciamo così, guardando passo passo insieme la struttura. Questa è la A. Seconda A. B. Più cantabile. Ultima. Ora c'è un episodio di transizione. Tema secondario. (Susurra) Nella seconda take il pezzo finiva qui. E invece qui lo fanno completo. B. Transizione uguale. Powell prende la transizione e la mette alla fine facendola funzionare come una coda. Ora l'esecuzione è assolutamente perfetta e si fermano qui. Noi abbiamo avuto il privilegio di vedere questo capolavoro formarsi sotto i nostri occhi, passo dopo passo, e cominciamo a comprendere anche che Powell probabilmente è arrivato con una bozza di idea in studio, l'avranno rapidamente provata, ma non avevano, come dire, il disegno completo del pezzo, che come vedete si è completato passo passo con vari contributi. Però evidentemente Powell il pezzo se l'era preparato, la composizione, quella parte intro, A, B, A, trans, la parte A, se l'era preparata evidentemente, era una composizione che aveva costruito per conto suo a casa. Ora vi farò apprezzare una parola grossa mentre mi metto al piano, qualche dettaglio. D'altronde Bud Powell ha già sofferto abbastanza in vita, mi perdonerà se suono qualche nota del suo pezzo. Vi faccio notare qualche dettaglio del pezzo. Innanzitutto comincia con questo approccio molto percussivo e denso che è tipico dello stile di Bud Powell. Questo accordo in particolare. Ok, mi soffermo su questo accordo. Sarebbe l'accordo di Do, la cosa più semplice che esiste. Ok? Solo che Powell ci mette due note che non c'entrano assolutamente niente, o meglio, una che c'entra molto poco, che è questa, che fin qui ci può stare un po', ma ce n'è una completamente estranea, che è questa. Questa e questa. L'accordo è questo. Questo tipo di sonorità era totalmente inedito nel jazz di quegli anni e sarà invece parte integrante del linguaggio armonico, pianistico, del jazz degli anni 60. Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, questi sono i pianisti che usano questo tipo di accordi. Evidentemente si sono largamente ispirati a Bud Powell, non a un Bud Powell qualsiasi, a questo pezzo di Bud Powell. La seconda cosa interessante è che Powell crea delle, come posso dire, delle piccole relazioni interne a livello ritmico, perché l'introduzione abbiamo detto che fa così. Ah, scusate, un dettaglio. Questo è l'accordo che vi dicevo prima, dimenticavo un piccolo dettaglio. Poi lui fa un piccolo svolazzo, che è questo. Ok? Questo svolazzo contiene le due note proibite, diciamo così, le due note dissonanti. Ha come due estremi le due note dissonanti. Vi dicevo delle relazioni ritmiche. L'accordo dissonante fa questo ritmo. Ta, ta, ta. Lui lo fa due volte. Quando fa il tema, prende proprio quest'ultimo ritmo che abbiamo ascoltato. Ta, ta, ta. Qui era. Il tema comincia con... e poi questo. Quindi questo ta, ta, ta diventa la cellula che lega l'introduzione al tema ed è l'elemento percussivo molto ossessivo che percorre tutto il pezzo. Poi lui fa delle piccole frasi che hanno sempre le due note proibite. Proprio in evidenza, per esempio alla fine. Notate che il pezzo non ha una vera e propria melodia cantabile. lo vedete anche nella mia difficoltà, sono blocchi dissonanti. Suonati lentamente sembra di sentire Bartok. La parte appena un po' più melodica è nascosta dentro gli accordi, perché la risposta a questa melodia è così. E poi ritorna dissonante. Quindi c'è questo piccolo movimento. Scusate. E poi torna molto dissonante. In realtà la parte melodica è la B di AABA ed è una parte molto bop. È proprio molto più melodica, gli accordi sono più cantabili. Poi fa e poi ricomincia. Ok? Infine, quindi questa parte B è molto più melodica. L'altra cosa molto affascinante è la transizione, quell'episodio che serve a collegare il tema con la parte di Montugno, di improvvisazione. Powell adotta una tecnica che i pianisti e in generale i compositori amano molto, cioè prendere una sola nota, una, questo è un do, e metterci sotto degli accordi, quindi un insieme di suoni, nient'altro più che un insieme di suoni, continuamente diverso, lasciando però in comune sempre questa nota. Thelonious Monk ci aveva scritto un pezzo, chissà che non si sia ispirato a lui. Comunque, nel caso della transizione, la suono lentamente, gli accordi sono questi. Sentite? Li rifaccio. Poi. Sempre quello in cima, poi. E poi fa una lunga scala e va a fare il Montugno. Chiaro? Il Montugno è basato su questa figurazione. Ok? Lui la suona con la mano sinistra e con il contrabbasso all'unisono che lo accompagna. Questo tipo di accompagnamento ha delle potenzialità per un improvvisatore straordinarie, lo vedremo meglio dopo. Però vi anticipo questo, che tenere una nota, diciamo un basso fisso, magari elaborato, consente a chi suona di suonare sopra qualsiasi cosa. Quando dico qualsiasi mi dovete prendere alla lettera. Qualsiasi, potete suonare quasi a casaccio e funziona, perché questa parte stabile fa da ancoraggio e dà un senso a tutto quello che succede sopra. Ma quello lo vediamo dopo. Non c'è dubbio che il grande protagonista di questo pezzo sia il campanaccio di Max Roach. Lo si sente perché tra l'altro entra proprio nel microfono con grande forza. Qui viene uno degli aspetti più affascinanti del pezzo. Max Roach cambia idea strada facendo, perché il primo ritmo che lui fa nella take 1 è identico al ritmo del pianoforte. Cioè lui raddoppia il ritmo del piano e del basso. Tan tan tan ta ta tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Non gli va contro, lo accompagna. Poi tra la prima e la seconda take deve aver avuto un'idea. E l'idea è questa. È un'idea che ha fatto impazzire generazioni di batteristi e di musicisti, perché questa figurazione è strana. Sembra che precipiti in avanti, sembra che non vada a tempo. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da. Come funziona? Funziona così. Direte, va bene, so quanto prima. E questa sta la fregatura del pagare il biglietto, ovviamente. Poi io so che qui dentro non tutti hanno pagato il biglietto, va bene. Sono anche i portoghesi, diciamo così. Se io non suono la seconda figura, la seconda nota di ogni... Sentite, sono tre coppie. Ok? Un, due, un, due, un, due. Queste tre coppie, in realtà, se io suono, non suono il secondo elemento di ogni coppia, per esempio lo faccio sempre più piano. E lo suono un po' più rilassato. Questa è la cosiddetta clave della musica cubana. Se qualcuno di voi va a ballare i balli cubani dopo cena, viene continuamente accompagnato da un campanaccio che fa... Viene chiamata anche figurazione 3-3-2, perché si conta così. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Questa è una figurazione ritmica che viene dall'Africa Bantu, cioè da quelle culture dell'Africa centro-occidentale, diciamo grossomodo dal sud del Sahel giù fino al Sudafrica, quindi una bella fetta di Africa, che adottano figurazioni ritmiche sui campanacci di questo tipo, che nel jazz sono arrivate attraverso... diciamo l'ispirazione della musica afrocubana. Qualcuno si ricorderà che forse un paio di anni fa abbiamo fatto una lezione su Dizzy Gillespie e il bop afrocubano, abbiamo spiegato come la musica cubana è arrivata negli Stati Uniti. Ecco, questo tipo di figurazioni arrivano dall'Africa via Cuba fin dentro il jazz. Max Roach sta facendo una figurazione che qualsiasi percussionista, che so, ghanese o nigeriano avrebbe assolutamente approvato, solo che la fa con, non fa come si fa a Cuba, ma ha aggiunto quel secondo elemento, che la rende più spericolata, si adatta in maniera meno precisa a quello che succede sotto, e quindi rende tutto diciamo, l'andamento enormemente più interessante. Naturalmente, quando si tratta di fare la terza take, la replica è uguale. Ok? Questa cosa influenza anche l'episodio di transizione, quello con la nota ripetuta, tutta riarmonizzata, che è tutto un gioco appunto fra Max Roach e Bud Powell, perché nella prima take Max Roach decide di suonare lo stesso ritmo del pianoforte di nuovo, ma lo fa in maniera ancora più, come dire, più appiattita sul ritmo pianistico. Tra l'altro, questo per gli specialisti eventualmente in sala, nella prima take il contrabbasso accompagna pizzicato in quattro quarti. È una cosa che viene dopo. Intanto sentiamo non voglio confondere, sentiamo il campanaccio insieme al pianoforte. Scusate, no, non c'è il campanaccio, e lui lo fa con la cassa. Allora, scusate, mi sono confuso con la take con la slide precedente. Faccio una piccola operazione, così lo risentiamo meglio. Ok. Qui fa, sentite come accompagna Max Roach, sostanzialmente con il rullante. Ok? Nella seconda take cambia strategia. Cassa e rullante. Ho scritto campanaccio, ma è un errore. Nella terza usa solo la cassa e il Charleston. Chiaro? Cioè, per ogni take lui questo accento lo fa una volta con la cassa, una volta col campanaccio, una volta con la cassa e l'hi-hat. E cambia continuamente colore. La scelta finale è quella di farla sull'hi-hat. Ora, avete visto che tutta la prima parte è fatta da tutta scritta, un'introduzione, il tema ABA, la transizione. Questo modello, in cui c'è un sacco di musica scritta in un jazz che poi lascia largo spazio all'improvvisazione, era un modello compositivo che piaceva moltissimo a Powell. Ci sono un sacco di pezzi di Powell costruiti in questo modo: un'introduzione scritta, un tema molto articolato, un episodio di transizione che porta all'improvvisazione. Anzi, nella maggior parte dei pezzi di Powell, questo episodio di transizione contiene anche un break, cioè la ritmica si ferma all'improvviso, lascia il solista da solo, lo lancia e comincia il pezzo. Il primo esempio che vi faccio sentire viene da Tempus Fugit. Man mano che ascoltiamo, vi faccio sentire solo il tema. Ricordatevi: introduzione, tema, transizione, break e poi assolo. Scusate, è Bouncing with Bud, un po' incasinato le... Bouncing with Bud. Intro. Tema. È una B, questa è la B. Transizione. Break. E poi attacca la solo di Sonironics. Vi chiedo scusa se l'ordine è invertito. Tempus Fugit, una delle prime composizioni di Bud Powell, un pezzo velocissimo, molto drammatico. Stessa struttura, introduzione, tema, transizione, break. Intro. Tema. Anche in pezzi molto più lirici, meno drammatici, come Silia, che è una bellissima melodia, molto ampia, introduzione, tema completo, transizione, break. Intro. Anche questa latinoamericana, come una specie di rumba. Tema. Il tema è sempre A, A, B, A. Questa è la A. Seconda. Eccetera. È possibile che l'idea della transizione a Powell sia venuta pensando a Night in Tunisia di Dizzy Gillespie, che ha lo stesso tipo di passaggio, un pezzo che non faccio sentire perché è notissimo, ma anche perché c'è una piccola sorpresa dopo. Questo è Night in Tunisia. Idea di un'idea che si ripete con gli accordi che cambiano. E il break. In Un poco loco non c'è il break, la risentiamo. vanno dritti all'improvvisazione. Il tema secondario sembra improvvisato, ma se uno ascolta tutte e tre le take di seguito, si rende conto che Powell ce l'aveva già in testa, perché dopo aver fatto il tema, quando entra il montugno, suona ogni volta in modo uguale questa melodia. Tra l'altro, questo tema secondario introduce due note. Questa è una delle due note dissonanti. E la seconda. E questa era l'altra, il do diesis e il fa diesis. Quindi lui enfatizza. Allora, teniamo a mente questo effetto. Queste due note, questo salto per la precisione, così dissonante, si chiama salto di tritono ed era una specie di firma dei musicisti bebop. Era un modo per dire facciamo i musicisti bebop, finiamo spesso le frasi con questo salto dissonante. Era proprio tipico di Charlie Parker, di Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell. Powell lo fa diventare una parte stessa del tema. Powell è un cosiddetto pianista bebop. Il bebop, lo sappiamo, è un stile musicale rivoluzionario, innovativo, di cui lo stesso Powell è uno dei padri, insieme a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Kenny Clarke, che si è affermato nell'immediato dopoguerra attraverso un modo di suonare frenetico, angoloso, spigoloso, anche lievemente angosciato, virtuosistico. E noi troviamo questi elementi bop in tante frasi dell'improvvisazione di Powell. Laddove sentite quelle frasi lunghe e intricate, quello è un elemento bop. Ora, la cosa curiosa è che di solito gli elementi bop si trovano laddove si muovono gli accordi, perché dovete pensare che l'improvvisatore pensa che gli accordi che ci sono sotto sono come le bandierine dello slalom. Ti costringono a fare dei movimenti, a scegliere delle note e a evitarne delle altre. Su un tempo molto rapido è una sfida molto eccitante riuscire a dare coerenza al fraseggio decidendo istantaneamente cosa suonare e cosa no mentre gli accordi si succedono rapidamente. Ma invece Powell utilizza questo tipo di tecnica non sugli accordi che si muovono, ma sul nostro famoso basso. Cioè su un'armonia ferma. Quindi lui mette un'idea di armonia che si muove e di fraseggio rapido su qualcosa di statico. Vi faccio sentire un paio di esempi. Questa ne era una. Questa è molto dissonante, sembra che suoni in un'altra tonalità. Finire sempre su quel fa diesis dissonante. Tra l'altro queste frasi che si chiudono con due note, papà, ci dicono, sapete che è da lì che viene la parola bebop, che è un'onomatopea che non vuol dire niente, è per dire le ultime due note della frase, bebop. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Io ho il basso fermo, posso fare delle frasi dissonanti, funzionano, suonano bene, e Powell lo sapeva. Il tritono, cioè quelle note dissonanti, quell'intervallo, il salto tipico del bebop. Sentite come lo fa Powell. Eccolo. E poi lo fa anche nella 3. Voi direte, ma è lo stesso pezzetto? No, no, no. È che lui la rifà uguale. Quindi anche l'improvvisazione, come vedete, attinge a dei gesti e a delle frasi che sono, fanno parte del bagaglio. Questo è quello che fa Powell in questi fraseggi più bop. Poi ci sono altre frasi che lui alterna, delle cose dissonanti, delle frasi bop, vedremo anche altre strategie, ma ci sono anche dei momenti strani. Per esempio, nella seconda take, quella che poi non è uscita, c'è una breve frase molto cantabile, come una specie di frase più infantile, che, come dire, queste frasi infantili si sentono anche nella terza take, ma questa è particolarmente curiosa. Mentre nella prima take, quella che era più esplorativa, a un certo punto suona una frase bop e poi sembra fare una cosa alla Thelonious Monk, cioè si incanta su due note. Le esplora, due note completamente dissonanti. È un peccato che poi quel disco è uscito più tardi, ma insomma in questa forma di esplorazione lui fa qualcosa di più audace che poi nell'ultima take, quella ufficiale, non fa. Frase pop. Pop. Avete sentito com'è curioso? Lui finisce spesso le frasi con queste idee in cui, più percussive, in cui suona due note, per esempio. Lui non fa o così, fa. Addirittura in un punto più avanti fa questa frase che poi su cui torneremo. Lui doveva fare. Invece fa una cosa alla Thelonious Monk. E un attimo dopo fa questa frase. Non così. Fa. Sono tutti elementi di dissonanza che probabilmente sono ispirati da Monk, ma sono anche concessi dal fatto che col basso fermo tu puoi fare le cose più astratte e funzionano. C'è una citazione dentro la terza take. A un certo punto, questa è una cosa tipica dei boppers, è citare dalle fonti musicali più bizzarre. C'è una frase nella terza take che è la citazione da On the Trail, sul cammino, dalla Grand Canyon Suite di Ferdi Groffé. Ferdi Groffé era un compositore, per farvi capire chi era quello che ha orchestrato la Rapsodia in blu di Gershwin. Quando Gershwin scrisse la Rapsodia in blu, la scrisse per due pianoforti. Non aveva il tempo di orchestrare la parte, secondo pianoforte e farlo diventare un'orchestra. Il lavoro fu fatto da Ferdi Groffé, che era l'arrangiatore e compositore dell'orchestra di Paul Whiteman. Groffé poi ha fatto una carriera anche come compositore classico e la Grand Canyon Suite, che raccontava in forma sinfonica, orchestrale, i grandi spazi del West, ebbe un enorme successo. In particolare, On the Trail passava alla radio continuamente, tutti i giorni, a tutte le ore. E ci dobbiamo immaginare che il piccolo Bud Powell sicuramente non è sfuggito a quell'ascolto, ma nessuno di quelli nati nei primi anni 20 non poteva ignorare questo tema celebre, che adesso vi farò sentire, celebre per loro, da noi non lo è. Perché questa frase che sentirete si ritrova nelle improvvisazioni di Ella Fitzgerald, negli assoli di Bud Powell, in quelli di Dizzy Gillespie. Questa piccola frasetta che racconta il cammino a cavallo sul sentiero del West è diventata una specie di icona della musica americana. Questa è come la fa Powell. Ok, questa è la citazione, questa è l'originale. Tam ti tam ti tam ti ta ta ta tam. E Powell la trasforma in quella citazione che abbiamo visto in Un poco loco. Mi avvio alla conclusione. Oggi Gioite, la conferenza è corta. Mi avvio alla conclusione, vi voglio far risentire, non siamo proprio alla conclusione, c'è ancora una piccola coda, vi voglio far risentire per intero un poco loco alla luce di tutta questa analisi che abbiamo fatto. Proviamo a ripercorrerla, ricordandoci che cosa? Innanzitutto la struttura che vedete alla lavagna. Ricordandoci che il tema è un tema denso, pieno di dissonanze, totalmente estranee al linguaggio del jazz di quegli anni, fortemente e radicalmente innovative. Abbiamo visto che durante l'improvvisazione Powell, in maniera molto libera, ma elaborando take dopo take, prova a mettere dentro la sua improvvisazione i materiali più disparati, dalla citazione di On the Trail, alle frasi bebop, al tritono e a certe frasi dissonanti. Ce n'è una in particolare che non abbiamo analizzato, c'è un punto, fateci caso, poi ve lo faccio sentire, che è questo, è da qui. Prima sale, fa, poi ve la so. Il basso è questo. Sentite come dissonante. Sono quelle famose note dissonanti che ci sono anche nell'accordo iniziale. È come se quell'accordo iniziale fosse il modulo generatore, il germe di tutta, non solo la composizione, ma anche dell'improvvisazione. Quindi vedete, qui avete un'improvvisazione, come riscopriremo riascoltando il brano adesso, che non è semplicemente un suonare tutto quello che ti passa per la testa, ma è anche condizionato da un pensiero compositivo su cui si basa il pezzo e che durante l'improvvisazione viene come espanso, sparso, rielaborato, sviluppato, mescolato ad altri materiali, perfino contraddittori, non necessariamente coerenti, perché questo è una specie di flusso di coscienza. Tutta la parte centrale è un flusso di coscienza molto libero, ma libero come può esserlo un artista, cioè qualcuno che ragiona su quello che fa. Ops, scusate, perché non... Dovete sapere che ho fatto la conferenza con la febbre, quindi c'è qualche piccolo problema. Allora, sapete cosa facciamo? La prendiamo da questa slide, dove c'è la struttura. Perfetto, tanto è uguale. Tutta blocchi. Più cantabile. Thank you. Texas e Blues. Uscì la terza take. C'è un aneddoto curioso, avete sentito che il pezzo è in gran parte il frutto di una composizione di Bud Powell, ma il contributo di Max Roach è stato rilevante. La stessa idea di cambiare figurazione di campanaccio dalla take 1 alla take 2 ci fa capire che è stata come dire, una scelta meditata, concordata con Powell, difficile dirlo, forse più no che sì. Perché Max Roach racconta che qualche settimana dopo ha incontrato Bud Powell per la strada, perché avevo cambiato slide, incontra Bud Powell per la strada, erano sulla 125esima ad Harlem, mi è caduto, chiedo scusa, è successo quello che è successo anche la volta scorsa, grazie, scusate, ma e siccome la conferenza è più corta uso queste strategie per allungare il brodo. Grazie, scusa. Si incontrano sulla 125esima strada ad Harlem, dice che Max Roach racconta che Bud Powell stava sull'altro marciapiede, ha attraversato la strada infuriato, gli è andato incontro, e scusate uso le parole di Bud Powell, tu cazzo mi hai fottuto il disco con quel campanaccio. Gli ha detto proprio così, forse anche in maniera più pesante. Era arrabbiato nero. In realtà a Powell è incredibile, questa storia del campanaccio non piaceva, non ce la voleva. Forse non gliel'ha detto a Bud Powell, a Max Roach durante la seduta, o forse ha provato a dirglielo, o era troppo sballato per intervenire. Secondo Max Roach la ragione era un'altra, che si lamentava del fatto che il batterista, che notoriamente è in una posizione gerarchicamente subordinata rispetto al leader, non può prendere tutte queste decisioni importanti, essenziali per il carattere di un pezzo. Fatto sta che evidentemente Powell, quando è uscito il disco, deve averle risentito, e il campanaccio non gli è piaciuto per niente. Questo è un aspetto paradossale, perché quella figurazione di campanaccio è una delle cose che ha reso il disco un disco di culto. Quindi voi vedete che noi consideriamo l'opera un capolavoro, siamo qui da 2 ore a parlarne, generazioni di musicisti ci si sono formate sopra, batteristi hanno trascritto, studiato il campanaccio di Roach, ma i 2 protagonisti del disco non erano per niente d'accordo sul fatto di utilizzare questo campanaccio. Anzi, il leader era totalmente contrario, completamente. Ora, la registrazione fu fatta nel 1951. Powell non suonò questo pezzo dal vivo, praticamente mai. Improvvisamente si mise a suonarlo tra l'agosto e il settembre del 53, durante una lunga serie di concerti che tenne nel più famoso club di New York, il Birdland. Perché cominciò a suonare nel 53, 2 anni dopo, con 2 bassisti diversi e un altro batterista del suo trio dell'epoca, un poco loco? Perché nel 1953 probabilmente Alfred Lion ha depositato il pezzo alla ASCAP, cioè alla CIA americana. Quindi a quel punto, avendolo depositato per averne dei diritti, se Powell lo suonava ci prendeva qualche gruzzolo di diritto d'autore. Questa è la ragione creativa, diciamo, per cui ha cominciato a suonare. Noi abbiamo 3 versioni dal vivo di questo pezzo, con un formidabile batterista che tra l'altro sentirete suona in modo completamente diverso da Max Roach e con grande intelligenza. 2 versioni sono con il bassista storico Carly Russell, e una evidentemente quella sera non poteva, c'è George Duvivier, un altro grande bassista che lavorava spesso con Powell, al contrabbasso. La cosa veramente curiosa è che Duvivier, nella serata in cui deve suonare con Powell una serie di pezzi, tra cui questo pezzo lui non lo sa e nessuno glielo spiega. Questo è tipico del jazz, eh? Cioè siete davanti a persone che hanno pelo sullo stomaco, cioè si suona, poi voi direte: ma se il pezzo viene male ci rimettono tutti d'immagine, no? No, nel jazz funziona in un altro modo. Io suono la mia musica e la suono bene, se poi tu bassista fai casino, la brutta figura ce la fai tu. È molto individualista da questo punto di vista. In particolare si capisce che Duvivier non ha la più pallida idea di come sia il pezzo nella transizione, che è difficilissima, no? Ta, ta, ta, ta, ta, perché lì gli accordi cambiano continuamente e lui suona delle note a casaccio. Fateci caso. Sentite, suona a caso. Suona qua, cioè suona 4 note all'inizio, poi non suona più niente, si sente solo la cassa perché non sa le note. La versione più bella è l'ultima che Powell registra nella sua vita, che suona dal vivo nella sua vita. Perché non va avanti? Lo so, ho incasinato di nuovo il microfono, è sempre una strategia questa. Non capisco perché non va avanti. Allora. Sì, scusa. Ma oggi abbiamo deciso di fare tipo cabaret. E che ci sono degli amici che sono venuti apposta per vedere questa fantastica conferenza e sto facendo la classica figura di merda. Scherzo. La versione del 26 settembre 1953 è bellissima, è molto diversa dalle altre che avete sentito fin qui, merita di essere ascoltata, è un po' più breve delle altre, dura poco più di 3 minuti. Si sente che Powell quella sera, tra l'altro tenete conto che Powell dai primi anni 50 comincia a suonare con una discontinuità qualitativa impressionante, può suonare malissimo e benissimo a seconda dello stato psichico, delle sostanze che ingeriva, è una situazione molto drammatica, ma quella sera doveva essere in grandissima forma, con il suo bassista e questo formidabile batterista, e fa delle cose che non fa nel disco della Blue Note. Ha un concetto completamente diverso, non ve lo sto a descrivere, siccome avete nelle orecchie il pezzo, l'abbiamo sentito a lungo fino ad ora, lascio a voi scoprire che cosa suona Powell nel Montugno. Non c'è il campanaccio, eh? La registrazione si interrompe prima. C'è un ultimo protagonista della nostra storia. Noi non abbiamo detto ancora niente del titolo, un poco loco, un po' pazzo. Sicuro che l'abbia scelto Powell, lo spagnolo, perché evidentemente il pezzo è di tipo afrocubano e quindi il titolo è in spagnolo. Però, come capite, c'è una autoironia amara e feroce su se stesso, addirittura da intitolare il pezzo un po' pazzo, dove evidentemente Powell, con questo gioco di libera improvvisazione e usando questo titolo, voleva dire che il pezzo ha un forte carattere autobiografico, forse. E la fortuna del pezzo è legata anche a questa confessione così candida e al tempo stesso così amara che Powell fece nel disco. Dovete sapere che alcuni anni dopo l'uscita del 78 giri, quella che abbiamo visto nella copertina, nella prima slide, la Blue Note raggruppò le tre take che abbiamo ascoltato, anche quelle scartate, in un LP. All'epoca c'erano anche degli LP più piccoli, da 10 pollici. Quindi gli acquirenti, diciamo, alla metà degli anni 50 potevano già scoprire che quel pezzo, che era già diventato un pezzo di culto, aveva una storia, potevano esplorarne la genesi, così come abbiamo fatto noi in questa lezione. E una delle persone che rimase profondamente colpita da questo disco è il più grande critico letterario degli Stati Uniti, Harold Bloom, come sapete, una figura torreggiante, i suoi libri sono largamente tradotti anche in italiano, è uno di quelli che ha stabilito il canone della letteratura del Novecento, e ha pubblicato anni fa un piccolo volumetto che si chiama L'angoscia dell'influenza, sottotitolo Una teoria della poesia. In questo libro Bloom accoppia artisti di discipline e ambiti diversi con un poeta. E c'è un capitolo dedicato al poeta Hart Crane, in particolare al poema La torre spezzata. Hart Crane è stato un poeta che è morto giovanissimo, nei primi anni 30, è un poeta simbolista, diciamo, per dare un'idea vaga del suo stile, e questo poema, La torre spezzata, che è appunto un poema di carattere molto evocativo e simbolista, secondo Bloom può essere associato a Un poco loco di Bud Powell. Ma la cosa più incredibile è un'altra, e cioè che prima che morisse, quando tornò negli Stati Uniti, Bloom incontrò Bud Powell e gli regalò una copia dei poemi completi, delle opere complete di Hart Crane, e gli disse: la devi leggere, perché qui dentro c'è anche il tuo mondo. Questo lui non aveva ancora scritto il libro L'angoscia dell'influenza. Anzi, gli disse, sai, questo lo ha rivelato in un'intervista recente quando è uscito il libro L'angoscia dell'influenza. Gli disse, guarda, io ho notato che tu suoni moltissimo con la mano destra e molto poco con la mano sinistra, come in effetti si sente anche in Un poco loco. E secondo me tu lo fai perché c'è l'angoscia dell'influenza, cioè come se tu non volessi suonare nello stile di tutti gli altri pianisti, sei diventato il pianista più originale che c'è al mondo perché, angosciato dall'influenza altrui, hai cambiato le regole del gioco sul pianoforte. Certo, l'angoscia nella musica di Powell, sicuramente nella sua psiche c'era, però mi immagino questo incontro alquanto improbabile tra il coltissimo Harold Bloom, bianco, il nero Bud Powell, in anni in cui la sua psiche ormai era completamente andata, era un alcolizzato all'ultimo stadio, e poi Powell ha sempre stato sostanzialmente una sorta di autistico, chiuso nel suo mondo, che si ravvivava solamente quando si metteva al pianoforte. Però sarebbe simpatico capire se, dopo che gli ha diato il poema di Hart Crane, Powell non abbia guardato Bloom negli occhi, non abbia pensato che forse anche Bloom è un poco loco. Grazie.